Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ben ritrovati Radio 24 Personal Best, il corso di corsa alla radio. Al mio fianco, come tutte le settimane, Ivana Di Martino. Ciao, buongiorno a tutti. Ivana, oggi puntata all'apparenza infausta, ma in realtà è molto interessante perché parliamo di infortuni legati alla corsa e lo facciamo con il nostro ospite di oggi, il dottor Luca De Ponti. Benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. Dottore, come possiamo prevenire gli infortuni e quali sono gli errori da evitare? Prevenire in assoluto gli infortuni non è una cosa facile perché molto spesso ogni infortunio ha una storia a sé e ogni atleta può incappare in questo tipo di problematica e ovviamente nella corsa, che è uno sport tendenzialmente traumatico per certi versi, è molto facile incorrere in infortuni. Bisogna fondamentalmente cominciare molto gradatamente e incrementare i chilometri percorsi in modo molto dolce e progressivo e soprattutto sapersi ascoltare, perché solamente la risposta del nostro corpo e le sensazioni che abbiamo nel momento in cui svolgiamo questo tipo di attività fisica ci può dare un'indicazione reale della nostra condizione. Per chi è inesperto molto spesso non è facile sapersi ascoltare, però nel tempo si impara, molto spesso anche a scapito proprio della possibilità di farsi male, e poi è opportuno avere l'opportunità di farsi consigliare in modo adeguato, vuoi da un allenatore per quanto riguarda un programma di allenamento, vuoi da un alimentarista per quanto riguarda il discorso della nutrizione, che è fondamentale anche per non farsi male, e perché no anche da un medico sportivo, da un ortopedico che abbia un'esperienza e quindi sappia guidare l'atleta, quantomeno seguendo dei criteri, dei principi generali basilari. Ecco. Qual è la parte del corpo più coinvolta dagli infortuni per quanto riguarda ovviamente la corsa? Per quanto riguarda la corsa, il piede è molto sollecitato, ma non solo il piede, anche le ginocchia, anche la schiena. Diciamo che statisticamente il piede, essendo poi la parte che viene a colpire il terreno ad ogni passo, è quella per certi versi più sollecitata, e quindi il tendine d'Achille, la fascia plantare, i metatarsi, tibiale posteriore, sono tutte parti del corpo che possono essere particolarmente sollecitate. Poi ovviamente dipende dal tipo di allenamento, dal tipo di percorso. Nella corsa abbiamo tante possibilità di allenamenti, vuoi negli sterrati, vuoi ad esempio negli atleti che fanno gare in pista, quando fanno degli allenamenti, delle sedute specifiche in pista, e ogni tipologia di allenamento comporta anche una tipologia di infortunio. Direi che ci sono delle cose facilmente superabili, alcuni infortuni facilmente superabili, altri un po' meno, quando soprattutto sono legati agli anni che passano, all'usura, è una serie di condizioni che possono portare malauguratamente in alcuni casi anche a dover sospendere la corsa. Questo è quello che capita molte volte, che magari con l'esperienza e magari siamo stati fortunati, non abbiamo mai avuto un infortunio nella nostra carriera, diciamo da atleta, e magari sottovalutiamo i segnali che arrivano al nostro corpo. Proprio per il fatto che non ci siamo mai infortunati, non pensiamo che sia passato del tempo nel frattempo, no? E questa è un'osservazione assolutamente corretta, perché molto spesso mi sento dire: ma come mai io che non ho mai avuto niente? E purtroppo invece il tempo passa, quindi anche l'autovettura che non ha mai avuto niente, quando arriva a 100 km deve fare un tagliando, può avere qualcosa, e quindi non c'è da sorprendersi se il tempo che passa, gli allenamenti sostenuti e tutta una serie di condizioni che possono in qualche modo fare in modo che il corpo dia segno di sé in modo più spiccato, a un certo punto si crei materialmente un problema che crea l'impossibilità a correre. Ecco. Però in questi casi è importante capire sempre il perché. Perché se l'atleta non capisce perché si fa male, o in questo non è aiutato dal medico, molto spesso continua a ricaderci. E quindi poi diventa un problema magari di carattere cronico, più difficile da risolvere. Quindi già solamente il fatto di capire perché uno si può far male è il modo migliore per trovare la soluzione. Quindi appena si sente comunque un dolore, cosa consigli? Di fermarsi immediatamente, rivolgersi a un medico? Cioè, cos'è che deve fare? Dipende ovviamente dalla tipologia dei dolori, perché sappiamo tutti che alcuni dolorini dopo un allenamento un po' intenso sono nella norma. Quei dolori muscolari che sono dovuti ad esempio al fatto che il muscolo viene ad essere sollecitato particolarmente e quindi c'è una fase catabolica delle cellule muscolari, il muscolo tende a degradarsi per poi ricostruirsi più forte, e quindi il classico dolore muscolare post allenamento è per certi versi fisiologico. Il dolore invece che persiste nel tempo, vuoi a un piede, vuoi a un ginocchio, vuoi alla schiena, ovviamente dopo un po' di tempo, dico al massimo una settimana, può essere, come dire, deve essere approfondito. E quindi solitamente è il medico o il medico di fiducia che interviene e giudica se è il caso di sospendere l'allenamento ancora per un po' di tempo o invece magari approfondire il problema con qualche esame. Io in questo caso adotto sempre, soprattutto durante la maratona, adotto probabilmente una tecnica che è sbagliata, che è quella che sento finché i dolori che sento nel corpo cambiano di posizione, quindi dal ginocchio si spostano alla caviglia, vanno alla schiena, un po' mi tranquillizzano, nel senso, fino a che il dolore insomma gira nel mio corpo sono abbastanza tranquillo. Quando sento che si fissa in un punto inizio a preoccuparmi. È assolutamente corretto, perché ovviamente il dolore migrante è sempre un dolore che così non lascia segno, comunque non crea un'impossibilità nel continuare a correre, mentre invece il dolore fisso localizzato che limita l'attività, che fa in modo che poi a un certo punto uno sia costretto a correre storto o a zoppicare o a non correre bene, allora quello lì è il dolore, diciamo così, di cui ci dobbiamo preoccupare, o comunque dobbiamo approfondire la cosa e cercare di vederci un po' chiaro. Ecco. Nella corsa direi che si parte sempre da un discorso di biomeccanica, nel senso che se la biomeccanica del soggetto che vuole correre è una biomeccanica corretta da un punto di vista articolare, è molto più difficile farsi male, mentre invece proprio sono le carenze di carattere biomeccanico, vuoi del ginocchio, vuoi dell'appoggio del piede, vuoi della mobilità della schiena, che poi innescano tutta una serie di problemi, e quindi, come dire, bisogna partire da basi sicure. Immaginiamo che io sia in autostrada, sto andando con la mia macchina a 130 all'ora. A un certo punto vedo che la macchina sbanda e tira da una parte. Esco dall'autostrada, entro da un gommista e il gommista la prima cosa che fa cos'è? Guarda se le gomme sono gonfie, perché potrebbe bastare solamente gonfiare una gomma per risolvere il problema. Nello sportivo che corre è un po' così, ci sono degli elementi basici di biomeccanica che devono essere rispettati, se non sono rispettati creano una serie di problemi. Quindi, tra virgolette, le condizioni anatomo-fisiologiche di chi corre devono essere rispettate, e quindi solitamente, nel caso specifico, è il medico che dà un'occhiata a queste cose. Molte volte per infortuni si pensa, o comunque si dà la colpa, la responsabilità alle scarpe. È un'indicazione per certi versi vera, però viene un po' sopravvalutato il problema relativo alle calzature, perché poi sembra sempre che sia colpa delle calzature. Diciamo che rispetto agli anni 70-80 la tecnicità della calzatura di oggi è nettamente superiore, cioè ci sono delle scarpe assolutamente evolute. È vero una cosa, che molto spesso deformando la scarpa e abituandoci alla scarpa deformata, nel momento in cui la cambiamo e quindi andiamo a utilizzare una scarpa nuova, questo passaggio può essere un passaggio problematico e molto spesso innesca una serie di problematiche non da poco. Ma non è colpa della scarpa, è colpa magari del fatto che la scarpa dovrebbe essere cambiata forse un po' più spesso in alcune situazioni, quando comincia a essere usurata e quando comincia a condizionare l'appoggio del piede. Però in generale direi che le colpe della calzatura sono un po' sopravvalutate. E lo stretching, la ginnastica comunque può prevenire il fatto dell'insorgere degli infortuni? Sì. Anche sullo stretching ormai si sente di tutto e di più, nel senso che si sente tutto e il contrario di tutto. Le teorie e gli esercizi dello stretching sono legate ancora a una cultura che va indietro nel tempo. Io ho dei libri degli anni 30 dove vengono illustrate benissimo tutte le tecniche di stretching attuali. Poi qualcuno dice, ad esempio, che lo stretching in alcune situazioni non va fatto. Ad esempio, alcune teorie sostengono che per avere una prestazione ottimale, il velocista, se fa troppo stretching prima di una gara, può inficiare la risposta muscolare, quindi anche la prestazione muscolare nei 100 metri, ad esempio, può essere inferiore al previsto. Ma è altrettanto vero che nello stesso atleta dobbiamo tenere conto non in assoluto solo della prestazione, ma anche del fatto che non si faccia male, perché se ho un velocista a cui richiedo sempre una prestazione massimale, però poi ogni volta si fa male, devo ricominciare ogni volta da capo. Quindi anche questa teoria va vista sotto un certo tipo di profilo. In generale possiamo dire che lo stretching è una pratica assolutamente corretta da fare, va fatta nel giusto modo, nei giusti tempi, però per quanto riguarda la prevenzione dell'infortunio muscolare rimane ancora un passo fondamentale. Grazie al dottor Luca De Ponti. Grazie a tutti e buone corse. Personal Best. Tutte le puntate sono disponibili su radio24.it.